Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Biancaneri in redazione, Paolo Corleoni in regia, sottoscritto per la vostra gioia o il vostro mal di stomaco, qui con voi tutti i giorni d'ora in poi, non vi lascio più, lo prometto, così come prometto di divertirmi, non so se vi divertirete anche voi, me lo farete sapere con calma. 800 24 00 24 è il numero verde, nel GR avete già sentito il sunto delle notizie della mattina, e cioè Fabio Capello felice e orgoglioso perché va ad allenare la nazionale russa. Io sono adesso curioso di vedere stampate un paio di cifre, cosa che non tarderà a verificarsi, anche se De Laurentiis non è d'accordo, perché di soldi si tratta e di soldi si parla. Sono contento se, come credo, andrà tutto bene per la definizione del contratto, sarà un'avventura splendida. La Russia è una grande nazione, mi ha voglia di far partire una musichetta russa, e invece no, un'altra. Perché non è Mosca ma Parigi il centro del mondo del pallone in questo momento, in attesa che lo diventi finalmente Londra, così parleremo d'altro. Allora, l'altra notizia che avete sentito nel GR, anche Verratti è andato alla corte di Carlo Ancelotti. Ibrahimovic è a Milano a svuotare l'armadietto, a prendere la liquidazione, o forse al contrario, a compilare il famoso assegno per aiutare il suo vecchio diavolo ormai con le pezze al sedere. Ma io voglio capire cosa succede a Parigi e lo chiedo ad Alessandro Grandesso, corrispondente della Gazzetta dello Sport, frequentatore di Twitter e di un blog calcio francese molto seguito e sempre più seguito, immagino, visto quello che sta succedendo intorno al Paris Saint-Germain. Ciao Alessandro. Buongiorno a tutti. Allora, a Parigi si tratta per Ibra. Verratti è arrivato, Thiago Silva è arrivato, la maglietta di Ibrahimovic è già pronta? Le magliette sono sicuramente pronte, aspettano ancora di annunciare in modo ufficiale per poterle dare anche ai tifosi che vengono qua ogni giorno alla ricerca della prima maglietta Ibrahimovic, ma finché non c'è presentazione ufficiale le magliette non le mollano, quindi per Verratti è tutto previsto, ma anche per lui l'ufficialità, domani ci saranno le visite mediche, suppongo nel pomeriggio la presentazione. Sì, dopo essere stati seppelliti dalle risate e dal piccolo Montpellier, ingaggio massimo dei giocatori Montpellier 300.000 euro, adesso hanno deciso di calare i pezzi pesanti e non rischiare più niente, tanto che non credo che quoteranno la vittoria del PSG nel prossimo campionato francese. Ma insomma, perdere il campionato con una squadra del genere sarebbe una catastrofe per tutti quanti, per Ancelotti, per il Qatar, per Leonardo. È una cosa davvero improbabile, nel calcio non si sa mai, ma è davvero improbabile se si guarda semplicemente la storia del calcio francese più recente, quando il Lione che vinceva campionati su campionati con una squadra che sulla carta valeva la metà di questo Paris Saint-Germain. Sì, obiettivo Europa a questo punto. L'obiettivo Europa sicuramente, con una certa ambizione, e il presidente Nasser Al-Khelaifi ha fissato come primo obiettivo gli ottavi di finale. Ancelotti già in tempi non sospetti parlava di andare anche più là degli ottavi, probabilmente lui sapeva già che c'erano dei movimenti in corso per potersi garantire una squadra competitiva. Di sicuro si attenderà molto da questo Paris Saint-Germain, sarà l'osservato speciale della prossima Champions League. Senti, ma mediaticamente tutto questo casino intorno e dentro al Paris Saint-Germain come viene trattato, questa astronave che è atterrata nel cuore della Ville de Lumière? Mediaticamente è difficile trovare altre informazioni che non riguardino il Paris Saint-Germain in questi giorni, perché in contemporanea alle valanghe di milioni che piovono sul Parc des Princes c'è una crisi che coinvolge tutte le altre squadre, soprattutto i nomi più conosciuti, almeno per chi segue il calcio francese, cioè da parte del Marsiglia che si è separato da Deschamps, passato alla nazionale, è soprattutto obbligato a una campagna acquisti low cost. Lo stesso sta facendo il Lione, che non è in Champions League, quindi ha dovuto tagliare il monte ingaggio, quindi sta cercando di sbolognare un po' i suoi senatori, e il Montpellier, che ovviamente, come ricordavate anche voi, è una squadra che presenta dei giocatori tuttora anonimi e che potrà forse sperare di avere un posto in Europa alla fine della prossima stagione, fino a Lille, che ha già venduto Eden Hazard, quindi sarà tutto un'incognita. Loro hanno lo stadio nuovo da inaugurare nelle prossime settimane, punteranno molto su questo elemento per creare forse un'economia un po' più stabile nella loro società. Beh, non c'è economia evidentemente nel calcio francese. Questa vicenda, questa storia l'abbiamo già vista con il Chelsea di Abramovic, l'abbiamo già vista con il Manchester City di Mansour, solo che queste astronavi atterravano in campionati competitivi. Ora mi domando al Paris Saint-Germain che cosa ci stia a fare nel campionato francese, quali possono essere gli obiettivi realistici, e mi domando anche se andrà avanti a comprare, se vorrà ancora qualcosa, perché la via è aperta. Quelle esperienze, a cominciare dal Chelsea, ci hanno insegnato che il passo più difficile era quello di convincere il primo grande campione. Una volta che la via è stata aperta, al Paris Saint-Germain vorranno venire tutti. Il passo più difficile forse è stato far convincere Ancelotti ad accettare il progetto, perché Leonardo sapeva benissimo che con Ancelotti in panchina sarebbe stato più facile portare altri giocatori di fama internazionale. Quello che sta accadendo riguardo alla posizione del Paris Saint-Germain in un campionato come la Ligue 1, se poi andiamo anche a vedere altri campionati, per esempio la Liga Spagnola, certo c'è il Real Madrid, certo c'è il Barcellona, però a parte queste due squadre stiamo parlando di un campionato quasi a livello scozzese. In Francia lo diventerà, non lo era fino ad oggi, perché il fatto che stesso che il Montpellier abbia vinto il campionato a sorpresa dimostra un po' la vitalità dal punto di vista almeno tecnico del campionato. Lo diventerà certamente, perché nessuno sarà in grado di opporsi alla potenza di fuoco di questo Paris Saint-Germain. Un'ultima cosa, Alessandro, secondo te a occhio le previsioni, o a naso se preferisci, le previsioni di a naso tempi, come Ibrahimovic. A naso, visto che stiamo parlando di Ibrahimovic, a naso, quando la firma, la presentazione ufficiale, quanto si dovrà aspettare? Adesso a Milano a svuotare l'armadietto e credo a lasciare l'elemosina, no? Ha detto lui. La mancia al Milan. Diciamo che quel che si sa è che è una questione, secondo me, di organizzazione, di come presentare al meglio Ibrahimovic. C'è una tournée negli Stati Uniti che parte giovedì per il Paris Saint-Germain. C'è l'arrivo di Verratti, che si tenterà almeno di non offuscare totalmente. In vista poi più in là c'è anche un Paris Saint-Germain Barcellona come prima amichevole qui al Parc des Princes. Quindi in tutti questi elementi bisogna trovare la chiave giusta per presentare un giocatore, una star, una diva come Ibrahimovic, che farà da immagine, uomo immagine per tutto il Paris Saint-Germain. Gianluca, fai i conti che abbiamo fatto tutti e li invia via SMS: 43 milioni Silva, 25 Ibra, 9 di bonus, 40 da UEFA, 22 da Fly Emirates, 139 milioni senza contare risparmi sugli ingaggi. Il Milan ha le pezze al sedere, Gianluca? Il Milan ha altri problemi? Il Milan ha evidentemente cambiato strategia societaria, perché è così, dichiaratamente, perché peserà, io credo, sull'intero sistema, sull'intero impero Berlusconi, ma questo l'abbiamo già detto molte volte, quella famosa sentenza Mondadori, le pressioni della famiglia. Insomma, è il momento di invertire la rotta, non sono più i tempi della cavalcata delle valchirie e degli elicotteri su Milanello. Questo mi sembra evidente. È vero che già era stato ceduto Shevchenko, è vero che già era stato ceduto Kakà, però erano arrivati giocatori in grado di tenere in vita quel Milan è poi fisiologicamente finito, perché sono finiti sempre fisiologicamente i senatori che lo componevano, e quella era l'asse portante su cui innestare i campioni che ti permettevano di rimanere ad alto livello. Adesso la politica, la storia è cambiata. C'è Marco D'Alissone che scrive: la SNAI quota la vittoria del campionato francese del PSG a 1,35. Se siete così sicuri, è un buon investimento. Purtroppo, caro Marco, le pezze a sedere le abbiamo noi e non possiamo permetterci di rischiare tanti soldi, nemmeno se c'è Ibrahimovic e Thiago Silva Antonio da Foggia. Buonasera. Buonasera. Senta, volevo fare una domanda che poi è anche una insieme una considerazione. A proposito del passaggio di Verratti dal Pescara al PSG. Sì. Era interessata la Juventus a Verratti. Qual è la logica per cui una squadra come la Juventus non vuol tirare fuori 8-10 milioni di euro per Verratti, che a quella cifra sarebbe rimasto in Italia? E qual è la logica per la quale la Juventus cede la metà di Immobile al Genoa per 4 milioni di euro? Cioè, c'è un giocatore che è capocannoniere della B, sì, un giocatore di prospettiva come Verratti, lo lasciamo andare via? Cioè, sotto c'è il fatto che il Paris Saint-Germain ha di milioni di euro ne ha versati 12, cioè quelli che chiedeva il Pescara. Non so dirle se ha ragione o ha torto, probabilmente ha torto, perché su un giocatore di questo tipo, essendo lungimiranti, si possono investire anche così tanti quattrini, sono tanti, per il nostro calcio soprattutto 12 milioni di euro. Poi non le so dire i motivi di questa strategia di mercato di una Juventus che comunque ha costruito una squadra, secondo me, destinata a fare il vuoto nella prossima stagione, nel prossimo campionato italiano. A proposito di Verratti, ma anche di Ibrahimovic, sentite questa. Carissimo Pinocchio. Come ho detto un anno fa, 6 mesi fa, sto bene qua. Sono molto contento, ho un contratto ancora 2 anni e non ce l'ho altri pensieri. Milan mi ha portato il sorriso dietro e la gioia di giocare, e non ce l'ho altri motivi di dire altre cose, perché quando stai bene giochi anche bene. Sto giocando bene in campo e sto bene fuori campo, più di questo non posso avere. Mi piacerebbe anche giocare un altro anno con il Pescara in Serie A, con la squadra di mia città, e fare un campionato in Serie A tranquillo, senza avere delle pressioni come sicuramente ci saranno a Torino, però è tutto da vedere. Sarebbe un piacere per me, per tutti i giovani come me, giocare in un top club come la Juve. Carissimo. E vediamo, teniamo i conti di queste dichiarazioni, perché sono estremamente divertenti. Franco Piantaneda si diverte molto in questi montaggi, e noi pure, non so se non tutti gli ascoltatori, ma pazienza, problemi loro, molti sì, e questo mi fa piacere. Non so, Francesco. Venezia. Buongiorno, parlo da Venezia. Sì. Appunto, volevo fare la stessa domanda che ha fatto il tifoso juventino. Io sono tifoso interista, dove sta anche la logica, sempre parlando di Verratti, mi sembra strano che un Moratti non fosse riuscito a tirare fuori 13 milioni di euro, e sta ricorrendo un giocatore brasiliano, Lucas, che ci vorranno perlomeno 35-37 milioni per portarlo a casa, se riesce a portarlo a casa. Sì, però... Francesco, io non la sento benissimo, ho capito insieme agli altri ascoltatori il concetto. Non dimentichiamoci però che, insomma, Verratti sarà anche bravissimo, sarà anche il futuro del nostro calcio, sarà anche il nuovo Pirlo, sarà quello che volete. Attualmente è un giocatore molto giovane, il cui talento pare indiscutibile, però è un giocatore che è reduce da una strepitosa stagione in Serie B con il Pescara. Quindi non sono così convinto che in un momento come questo ci siano club che a cuor leggero dicono: ma Verratti, il futuro, abbiamo la certezza che questo diventerà un campione, quanto vuoi, 12 milioni, eccoli. È un investimento pesante, questo, per un giocatore, ripeto, che ha tutti i segni per essere un giocatore molto importante anche in chiave azzurra, però ci vuole qualche riprova, no? Paris Saint-Germain ha molti soldi e molto coraggio, probabilmente più soldi che coraggio, molti più soldi che coraggio, e è andato a prendere questo talentino che affidiamo comunque alle mani di Carlo Ancelotti, in quella che diventa poi a tutti gli effetti, con Leonardo che lancia ogni tipo di esca in Italia, portando a casa grosso modo quello che vuole, è una sorta di colonia italiana, no? Perché guidata da Ancelotti, poi Sirigu, Pastore e adesso tutti questa diaspora verso il nuovo mondo parigino. Attenzione, perché il calcio francese non è solo Paris Saint Germain, hanno anche loro problemi economici diffusi e importanti, però è un calcio in crescita, il calcio francese, complici gli europei che li verranno organizzati, complici comunque interessi e movimenti che intorno a quel mondo si verificheranno, con costruzione di nuovi stadi, eccetera, eccetera. Il calcio francese è quello probabilmente destinato a superarci se da noi le cose continueranno così, ad ogni livello. Paolo da Viterbo. Sì, salve, sono Paolo. Paolo, buongiorno. Tifoso del Milan. Volevo fare una domanda. A lei risulta che il Milan non paghi gli stipendi? Che a lei, personalmente. A me no. Perché a lei sì? Allora, prima di dire che il Milan ha le pezze a sedere, io ci andrei un attimo cauto. Cosa c'entrano gli stipendi? Cosa c'entrano gli stipendi con il fatto che... Perché da come sono state messe le cose, da come state mettendo la trasmissione, io capisco che lei deve far venire fuori il suo sentimento nero-azzurro, però lo spottino di Ibrahimovic che dice non me ne vado, sono stati costretti ad andarsene per un motivo, giustamente per far cassa, e su questo prima di tutto non si sa con questi 62 milioni di euro o parte di essi il Milan come li reinvestirà, per cui prima di giudicare io ci andrei un attimino cauto. Sì, lo vediamo. Secondo, poi preferisco avere o aver avuto dei giocatori del genere piuttosto che avere un Lucio che dopo due giorni che si trasferisce alla Juve, ma certo, ma guardi, ma non, ma però evitiamo di buttarla sul tifo così spinto. Guardi, l'importante è essere chiari, cioè al Milan, se qualcuno dicesse ai tifosi del Milan come lei, ricostruiamo la squadra, rifondiamola, programmiamola sui giovani, investiamo nella direzione di avere una squadra pronta a vincere magari tra 2, 3, 4 anni, se ci fosse una linea guida precisa, e questo discorso vale anche per l'Inter, che non è la mia squadra del cuore per nulla, a differenza di quanto lei pensa, perché non me ne importa niente. E se le politiche fossero chiare e dicessero abbiamo bisogno di coprire i buchi, perché l'azienda di famiglia è in crisi, ha molti debiti, il Milan non è più strategico, oppure abbiamo deciso di dare una nuova immagine al Milan perché la squadra che ha vinto tutto era evidentemente a fine corsa, io credo che nessun tifoso milanista non avrebbe pazienza. La cosa un po' fastidiosa, secondo me, è che adesso con la dismissione del parco degli anziani, quindi con la forza del Milan vera che non c'è più, che era quella colonna vertebrale di giocatori che erano depositari dello spirito di quella squadra, poi arrivavano i campioni di turno e venivano metabolizzati nella squadra, e per questo il Milan ha continuato a vincere per anni. Adesso si tratta di rifondare e ricostruire una squadra. Si vuole mantenere lo stesso livello servono un sacco di quattrini, e il Milan non è disposto a spendere questi quattrini, ma mi sembra lo abbiano lasciato intuire gli stessi alti dirigenti rossoneri, quindi non lo dico io, Gianmarco. Non è che il Milan non paga gli stipendi, non è che il Milan ha le pezze da sedere, il discorso è che non è disposto più ad investire quei soldi per... Almeno Berlusconi non è più disposto ad investire quei soldi per il Milan al momento. Gianmarco. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Io vorrei lasciare uno spunto di riflessione ulteriore rispetto a questa discussione, no? Perché premetto che da tifoso ho sempre tentato di tenere lontano la politica da quello che è il calcio, no? E da quello che è poi lo sport in assoluto. Però mi colpisce il fatto che il Milan, Berlusconi, diciamo un paio di mesi fa, mi ricordo che Galliani aveva fatto i primi approcci per tentare di vendere Thiago Silva al Paris Saint Germain, e Berlusconi era subito sorto in difesa, no? Tentando di richiamare la sua padronanza, il suo possesso del Milan, dicendo non vi preoccupate, non lo venderò. Poi a un certo punto decide di ritornare in politica, decide di richiamare fuori Forza Italia, e a un certo punto i messaggi che ho letto sul giornale: nei prossimi 2 anni risparmieranno 150 milioni di euro, no? Mi colpisce semplicemente il tempismo di questo cambio che ha citato anche lei di inversione di rotta di gestione della squadra a ridosso proprio di un intervento politico così importante, no? Sì. Era soltanto questo spunto di riflessione da lasciare. Ed è corretto, interessante, ma io ho sempre notato, senza nascondere il mio pensiero, che comunque per Silvio Berlusconi il Milan sia stato non dico la parte più importante, ma una parte molto importante per la sua carriera. Una sorta di cavallo di Troia, una sorta di bandiera, una sorta di immagine vincente da comunque da dare alla gente, da far vedere, da mostrare al pubblico anche per altri scopi, ma penso che non ci sia nulla di peccaminoso in questo. Le vittorie del Milan sono state vittorie di Berlusconi e si sono tramutate in parte in successi anche politici. Questo si è sempre verificato con un tempismo che notiamo in questo caso, ma con un tempismo che abbiamo a suo tempo notato con l'acquisto di Ronaldinho avvenuto con grande fretta, anche se vogliamo, sotto elezioni, eccetera, eccetera. Quindi queste sono manovre che si possono anche intuire, che si possono anche analizzare, magari non da noi. Ti fanno bene molti addolorati tifosi ferraresi a far notare la notizia della scomparsa della SPAL tra i dilettanti dopo 100 anni di onorata storia con 16 anni di Serie A, scrive Beppe da Vignola, domandando due parole di commiato, ma non voglio fare dei funerali. Purtroppo queste è una sono problemi reali che riguardano anche società con grande passato che il calcio italiano ha e si terrà per un bel po' di tempo. Poi io vi adoro per un sacco di messaggi che mi mandate. C'è Miki Rossonero che dice: lei è il solito plutomassonico antimilanista. Plutomassonico antimilanista, sei meraviglioso, Miki. Il Milan è uno squadrone, solo un perfido come lei può dire che siamo da terzo posto. No, se volete dico anche che il Milan stravincerà la Champions League, poi non ci credo, ma non ci credete nemmeno voi, se no siete peggio di Pinocchio, di carissimo Pinocchio che abbiamo sentito prima. C'è anche chi scrive un'altra cosa: lei fa schifo da quanto è antimilanista. Ringrazio anche Max, ma così ci divertiamo di più. Non solo calcio, perché sennò mi annoio. Non solo calcio, né oggi né mai. Ieri è stata una giornata importante anche su altre piste, su altri campi. Un breve riassunto. È già su una ruota sola, intanto Jorge Lorenzo, il martiglio Mantequilla, riesce addirittura dall'alto della sua superiorità a salutare il pubblico a gara in corso. Non è ancora arrivato al traguardo, con 6 secondi e mezzo, 7 secondi di vantaggio, che già saluta titanico Jorge Lorenzo quest'oggi davanti a Daniel Pedrosa. È stata una gara dura, perché all'inizio io pensavo di andare via, però Pedrosa era lì, Dovizioso era lì. Per fortuna alla fine, guidando bene, passando della barriera del 48, è potuto andare via e stare più calmo. Sono molto contento di ritornare a andare via un pelino la classifica. Sempre prima delle Olimpiadi, quindi speriamo. Mi porta fortuna sicuramente questo torneo, mi piace tantissimo e sono molto contenta. È un anno incredibile, non me lo aspettavo, me lo sarei mai aspettata. Speriamo di continuare. Sì, ovviamente ci puntiamo, speriamo, sarà dura perché comunque non è facile, ci sono tante coppie fortissime, però ci proveremo al massimo e poi vediamo, speriamo in una medaglia. Ed erano naturalmente Jorge Lorenzo che ha vinto al Mugello. Ieri Valentino Rossi è salito su un podio altrui, essendo arrivato quinto, per salutare la gente. A me queste stagioni di Valentino Rossi riempiono di tristezza. Invece l'altra pagina, quella sorridente della medaglia, era, almeno sul versante azzurro, era quella di Sarerrani, che ha vinto a Palermo, quarto torneo stagionale, e questo è per le nostre parti un record, con Sara che già guarda all'Olimpiade. Credo che anche a uno sportivo vero come Vincenzo Pincolini, pure da molto lontano, abbia fatto piacere questa digressione. Cioè, poi il tennis mi piace, quindi vedere anche, a me fa sempre piacere vedere atleti che arrivano a vincere attraverso proprio tanto allenamento, tanta preparazione. Lei Rani penso che abbia fatto una strada di questo genere. Bravissimo, ecco. Vincenzo, quindi non è una super donna, Esatto, e quando alle spalle ci si intuisce la storia, che sia ciclismo, che sia tennis, che sia qualsiasi cosa, chiaramente per il nostro mestiere muove sempre dei sentimenti di emozione, anche perché poi più anni si hanno più ci si emoziona, hai capito? Ragione. Senti, ma ti emozioni anche per tuo amico Fabio Capello, che da Don è diventato Sir e adesso Zar? Sì, io credo, guarda, che proprio parlando anche con altri amici, la Russia abbia scelto l'allenatore più adatto, e non è un luogo comune, non è, perché in Russia, io sono stato un anno e mezzo, c'è sì. bisogno di un allenatore manager, e credo che Fabio riuscirà a dare più organizzazione a questo mondo, più organizzazione, che vuol dire proprio mantenere rapporti fra la nazionale e le squadre di club, che vuol dire, per dire, riuscire a dare un pochino di mentalità da squadra di club a una nazionale che per adesso la Russia assolutamente non ha. E non credo che Fabio, credo che Fabio sia nettamente diverso da tutti quegli allenatori, soprattutto olandesi, che sono diventati famosi perché hanno vinto qualcosa in Russia, ma soprattutto perché hanno portato via grandi contratti. Sì, beh, anche Capello non porterà via un contrattino, Vincenzo. Ma sicuramente lascerà di più. Gente, sì. ad esempio, conoscendo Fabio e conoscendo il suo perfezionismo, Fabio, come già avuto occasione di dire, rimarrà a Mosca, e per capire il calcio russo bisogna vivere, certo. bisogna rimanere parecchio tempo, è difficile andare avanti e indietro. Sì. Non ci sono tanti giocatori fortissimi nella nazionale russa, ma c'è la possibilità di scegliere fra tutte le squadre, e tutto sommato la cosa facile della Russia è che tutte le squadre importanti, a parte sono a Mosca. Comunque a parte San Pietroburgo, a parte Kazan, ma che comunque giocano spesso a Mosca, certo. da quell'osservatorio privilegiato segui tutto. Certo. Andare a cercare giocatori anche un po' più giovani, anche di meno nome, che sicuramente possono essere utili per l'organizzazione che vorrà dare Fabio. Sì, ma anche e ribadisco perché... proprio il concetto organizzazione. Certo, ma perché vedi, da decenni, fin dai tempi della vecchia Unione Sovietica, che io ricordo, c'erano squadre magari anche di grande talento che arrivavano ai mondiali o agli europei, le prime due partite sembravano dover spaccare il mondo, è successo anche un mese fa, eh. Certo, poi certo. puntualmente esplodono come rane, questo è difficile certo, da capire. Certo, poi ci sono proprio delle problematiche relative alle abitudini che bisogna toccare. Io ricordo ad esempio la sfortunato spareggio che la Russia ha fatto per arrivare ai mondiali contro la Slovenia, che ha perso contro la Slovenia nei due incontri. Ci furono grandissime critiche per la gestione del gruppo fra le due partite, che fra le due partite lasciarono libero il gruppo, e ci furono le famose fotografie di notte, e la gestione di questi periodi probabilmente con Fabio non sarà un problema, anzi sarà un valore aggiunto. Certo. Senti, posso chiederti ancora una cosa che non riguarda il calcio, sì, ma riguarda una mia curiosità, che è questa: Usain Bolt e una spedizione olimpica che nasce sotto una stella strana. Sì. Come lo vedi? Ma sai, Bolt è un atleta che mi piace moltissimo, e mi è piaciuto moltissimo il fatto che sia arrivato un grande atleta con una fisionomia non da doping, diciamolo chiaramente, ecco, sì, è un una grande persona, ma non ha le braccia da culturista, ha un bellissimo fisico che per certi versi ci può ricordare, per chi se lo ricorda, Carl Lewis. Sì. E ho letto effetti, Vincenzo, guarda, io porto sempre dietro nella testa le immagini dei 100 metri, ad esempio, di Atene, vinti da Gatlin, con quella corsa strepitosa, certo, poi te li certo. vedi passare vicino e dici, ma questi da dove escono? Sì, sì, no, ma e poi eravamo arrivati al discorso che, per dire, tutte quelle che erano le nostre importanti lezioni del mitico professor Vittori sulla tecnica di corsa non contava più niente, perché tu avevi a disposizione chimicamente talmente tanti cavalli che gestire questi cavalli non era importante, ecco. Certo. Mentre è tornato Bolt, che è un esempio, io ho fatto anche per farlo, ve lo feci vedere l'anno scorso ai giocatori, proprio il video di due gare, perché per questo discorso di cercare di capire cosa vuol dire stare avanti di spalle, usare le braccia in un certo modo, eccetera, e quello ci fa piacere. Poi è uscito un altro che sembra più forte di lui, in un momento dove forse dobbiamo sottolineare anche i problemi che sono sempre sotto traccia, ma se ne parla sempre della schiena, perché ricordiamo che un velocista con problemini di schiena sicuramente non può caricare negli allenamenti e poi dopo chiaramente fa fatica ad esprimersi al massimo livello. Ecco, a quei livelli lì bisogna star bene al 100%, non si può stare al 95%. Sì. E cosa vuoi? Non dico lo strano, ma l'eccezionale, che è già un altro giamaicano quello che può essere il suo avversario. Sì, ecco. Sì, sì, no, se la Stella Bolt dovesse davvero durare così poco sarebbe un peccato, perché è un personaggio che a me come a te piace moltissimo, insomma, ma anche come moltissimo. Atleta, come tipologia di atleta. Ecco, io ad esempio vengo, sai, dalla generazione di Pietro Mennea, e Pietro Mennea ad esempio che era grande proprio perché preparava queste grandi prestazioni quasi in isolamento in questi allenamenti monacali, mentre Bolt che passa tranquillamente da Hollywood a un party a un allenamento, negli ultimi anni a un impegno pubblicitario, chiaramente ci dava la dimensione di essere un fenomeno nella gestione dello stress, degli allenamenti, di tutto. Sì. Bisogna vedere se questo tipo di vita è poi confacente ad una carriera più o meno lunga. Ecco, chiaro, sono sempre gli stessi, Vincenzo, punti interrogativi. Chiaro, Vincenzo. Comunque è arte contemporanea in movimento, secondo me. Bravo, bravo. Io proprio, cioè, mi riporto, non so, a Carl Lewis, ma sono pochi gli atleti che ci rimangono negli occhi così tanto per la tecnica. Ecco. Vincenzo, sempre un piacere disturbarti. Piacere nostro, un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie, grazie a Vincenzo Pincolini. Grazie a Vincenzo Pincolini. Beh, di Bolt, di Olimpiadi avremo modo di parlarne, ma è una... Insomma, io sono seriamente preoccupato, perché mi piacerebbe da tifoso, lì sì sono tifoso di Usain Bolt, perché proprio per le ragioni che ho detto, mi piacerebbe vedere un Bolt capace di stracciare tutti anche a questa Olimpiade dopo il mondiale dell'anno scorso in cui fu bacchettato per quella falsa partenza. E oggi è stato il giorno di Verratti a Parigi, ufficiale, penso che domani possa essere quello di Zlatan Ibrahimovic. Probabilmente ha ragione Alessandro Gandesso quando diceva prima che stanno così pensando anche alla maniera migliore per dare tutte le luci e tutti i riflettori alla loro superstar. Naturalmente al capitolo altri sport di ieri c'è anche la vicenda dei chiodi sul tour, di cui tra poco parleremo, ma prima voglio farvi sentire qualche voce che pure è destinata a far discutere, a cominciare da Lussio, vecchio cuore bianconero. Io oggi il mio colore è bianconero. Ti sei fatto un'idea sugli scudetti? Per te sono 28 o 30 quelli che ha la Juventus? Io penso che la stessa idea che ha detto il presidente. E se dovessi fare un gol all'Inter, esulterai? Come ha detto prima, adesso difendo la Juve e la mia squadra, e sicuramente che per me è una situazione normale e esulterei se non è un problema. Vecchio cuore bianconero, Lussio, sì, tutto condivisibile salvo la prima parte del discorso, vabbè, ma non per, non voglio stare a rivangare quella storia, 0 stelle, 10 stelle e 46 stelle, prima stava dall'altra parte, è normale, è giusto, è corretto dire gioco nella Juventus, se segno contro l'Inter esulto, perché questo a me ha stufato da morire, questa manfrina di chi non esulta se ha giocato da un'altra parte. Quanto al resto lascio ai vostri commenti, ma c'è anche, prima di Gianluca da Torino, da sentire, interessante, Zeman, il precettore che toglie Totti. Il discorso di Totti è che volevo che cambiava con Osvaldo e lui ha detto che non ce la fa, quindi se non ce la fa l'ho cambiato. Ma io penso che non ce la faceva nessuno, però qualcuno è durato anche 90 minuti in campo stringendo i denti come si dovrebbe fare. Per me, per un attaccante, gioca in partenza di schiena alla porta, per me non esiste nel calcio. Poi che c'ha delle doti eccezionali, anche oggi ha fatto 2-3 progressioni che poi magari ha finito male con ultimo passaggio o tiro. Però è un giocatore di qualità, io penso che quando impara due cose fondamentali ci aiuterà molto. imparare ancora, deve fare di strada di Totti, deve crescere ancora a 36 anni. Gene Gnocchi scrive sul rompipallone di oggi parole che magari Zeman pensa, ma non dice. Totti lo voglio molto esterno, ho già chiesto alla società di fargli avere un abbonamento nei distinti laterali. Naturalmente Totti non si tocca neanche per Zeman, neanche Zeman può permettersi di toccare Totti, ma sappiamo che è così. Gianluca da Torino. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno. Ma ho sentito il ragazzo che ha chiamato prima, diceva appunto, faceva questo parallelo tra discesa, nuova discesa in campo di Berlusconi e cessione dei giocatori. È un parallelo, io la vedo esattamente al contrario di lui, cioè penso che se Berlusconi avesse le possibilità in questo momento cederebbe proprio nessuno, anzi rafforzerebbe la squadra. Oltre al fatto che non sono convinto che Berlusconi abbia deciso ora di scendere in campo, penso lo sapesse già quando ha deciso di tornarsene a casa. Sì. È un altro discorso. Sì, questo, diciamo, lo penso, se... questo lo penso abbastanza anch'io, ma è un discorso che ci porta lontanissimo. Diciamo, e credo anche che sulla Fininvest e sull'impero. Beh, però Gianluca, guardi che anche magari questa inversione di tendenza all'insegna dell'austerity in un momento come questo può essere un segnale al contrario rispetto al solito, perché prima eravamo abituati al fatto, ok, elezioni Ronaldinho, squadra da mettere in vetrina, squadra emblema. Guardi, attualmente possiamo fare tutte le congetture che vogliamo, ma tali sarebbero appunto, no? Penso anche che sul Milan pesi il lodo Mondadori, c'è un bel po' di soldini che rischia di dover tirare fuori. Bravo, esatto. Quindi, insomma, soltanto questo. Vi faccio un saluto e vi ascolto. Grazie. Grazie a lei, Gianluca. A risentirci. A risentirci, poco da aggiungere in realtà. Federico da Milano. Sì, buongiorno. Dica. Mi presento. Allora, intanto volevo... sono tifoso del Milan da sempre, quindi... volevo fare un discorso sportivo più che politico. Sì, ma preferisco. Ecco, allora, volevo intanto... Senta una cosa, Federico, ma lei pensa che io sia un plutomassonico antirossone, antimilanista? No, infatti la chiamo, perché quel tifoso milanista chiamerei collega. Collega, certo, perché tale è. Sì. Secondo me ha detto una cosa non corretta, cioè si è... appellato alla sua fede, pseudo fede, io non lo so, interista, spero di no, da tifoso milanista, però se anche fosse lei non ha assolutamente... Non ho fede, non ho bandiere, mi spiace. Esatto, non ha assolutamente... Sono laico. Dietro, detto niente di strano in quello che ha detto. Anzi, vorrei far presente al caro tifoso e al caro collega che quello che manca oggi al Milan è la dichiarazione di un progetto, perché nessuno... spera o vuole avere la squadra invincibile europea. Sappiamo come vanno oggi le cose, l'economia, ma quello che è mancato da tantissimi anni è che la società non ha mai dichiarato il progetto Milan. Esatto. Questa, Federico, è la verità. Io continuo a dirlo, poi sarò anche pluto giudaico massonico e antimilanista e con... Perché mi perdoni, se il progetto è costruire una io credo che giovani. Ma certo, ma io credo che nessun tifoso vero del Milan, se gli dicono questa squadra è finita perché è finita fisiologicamente, i vecchi se ne devono andare, erano la colonna vertebrale del Milan su cui innestavi il campione di turno e tutto funzionava perché veniva metabolizzato, perché il Milan è una società che è sempre stata gestita splendidamente da questo punto di vista. Se diciamo quella squadra è finita, adesso ne facciamo un'altra in questo modo, con questi soldi a disposizione perché di più non ne abbiamo, non vinceremo per 2-3-4 anni, però il progetto è questo. Beh, io credo che nessun tifoso milanista vero si possa incazzare. Quelli che invece continuano a pretendere i lustrini, allora saranno tutti arrabbiati e io sarò antimilanista insieme a lei, magari, Federico. Grazie a tutti. Adesso però, mentre su Twitter ci scrive Diego Confalonieri, medaglia di bronzo a Pechino 2008, spada a squadre, quindi abbiamo dei grandi followers. A proposito del Paris Saint-Germain, Diego Confalonieri scrive: mina vagante, facciamo bomba nucleare, anche se con Ibra in Europa, il Paris Saint-Germain in quarta fascia di Champions League. Starne alla larga, prego. Così come bisognerebbe stare alla larga da certi chiodi. Pier Augusto Stagi dal Tour. Ciao Pier Augusto. Ciao Carlo. Beh, quella di ieri, non è nuova, ma inedita al Tour, sì. I chiodi da tappezziere sul manto stradale. Chi è stato? È una bella domanda. puoi sapere troppo. E ci vuole il commissario Maigret. O... Sì, ho paura che anche lui potrebbe fare una bruttissima figura. E quello che domandano un po' tutti, già ieri sera il presidente, cioè il direttore della Tour de France, Christian Prudhomme, si domandava chi può essere stato. Un pazzo, un mitomane. E chiacchierando, lui c'ha anche dei brutti presentimenti. Ha assicurato che lui era sulla fuga dei cinque, quella di Sagan, quella di Luis Leon Sanchez, sì. E quando sono passate le vetture al seguito, i cinque corridori più le telecamere di France 2, la giuria, il direttore di corsa, le ammiragli, il cambio ruota, cioè non c'era assolutamente niente. Quindi deve essere successo tutto in quel quarto d'ora che separava la testa della corsa col grosso del gruppo. Ma dovrebbero esserci migliaia di testimoni a quel punto. Perché lungo la discesa, tra l'altro, dice che Prudhomme dice non c'erano tifosi, perché i corridori, la discesa era una scesa piuttosto veloce, andava a 85-90 all'ora, e quindi i tifosi stavano solo sul tratto di salita, in discesa non ce n'era neanche uno, perché doveva passare troppo velocemente. Quindi deve essere stata una macchina del seguito, e questa è ancora più inquietante. Infatti dice, qualcuno che fa parte del tour, che può essere della carovana, che può essere qualche ospite al seguito, perché al Tour de France ci sono molte macchine VIP che portano autorità, sponsor, persone di varia umanità, e chiunque potrebbe aver buttato una cinquantina di chiodi. Attenzione, c'è un traditore in seno al Tour de France. Comunque un burlone, uno che probabilmente... Burlone neanche tanto. Esatto, che ha sottovalutato, che non ha pensato in fondo alle conseguenze, perché forse conosce poco il ciclismo, perché non pensa a quello che può causare. Un conto è buttarle in un tratto di pianura, effettivamente al massimo ti si buca una gomma, ti fermi la canna. Un conto invece sentire proprio sotto di te mancare la resistenza di una gomma che va direttamente a toccare il cerchio, va a toccare direttamente l'asfalto. Rischi la testa, rischi l'osso del collo, non c'è dubbio. Quindi io non parlerei di burlone o dello scherzo di un burlone, ma di qualcosa di molto serio. Se poi tu mi dici che ci può essere una serpe in seno al Tour de France, la vicenda diventa ancora più interessante. Altro che Poirot, altro che Maigret. Esatto. È un'indagine seria e approfondita. Wiggins ce l'ha in mano, no? Il Tour? Il Tour ce l'ha assolutamente in mano, e ce l'ha è assolutamente il favorito, lui e il suo compagno di squadra Strom. Sì, vanno come le schegge, un po' noioso questo tour. Noioso, assolutamente sì. Devo dire che a livello tecnico è stato sicuramente più divertente del Giro, solo per un fatto, che comunque i grandi corridori ci mettono dell'oro, e quindi Nibali, Cade Evans, Peter Sagan, qualcosa si inventano. Però a livello di disegno, non c'è dubbio, l'amico Christian Prudhomme ha esagerato, qualcosa di più poteva fare, perché veramente Wiggins a cronometro non lo fermi nemmeno con i chiodi del tappezziere, disgraziato colui che li ha buttati. Grazie Pier Augusto Stagi, ci risentiamo naturalmente. Io devo chiudere qui ringraziando Franco Piantanida in redazione, Paolo Corleoni in regia. Domani alle 2 ci ritroviamo qui per A Tempo di Sport.